non tutti danno al mattino lo stesso valore. Per i bambini e i giovani in genere è il momento propizio per dormire. Per altri è il momento migliore per sbrigare le faccende di casa o gli affari. Per altri ancora, il mattino è un momento di attesa per vedere cosa succederà. Eppure, qualsiasi opinione si abbia, il mattino rimane il momento migliore della giornata, come dice il detto. Il mattino ha l'oro in bocca. Questo proverbio è talmente vero che anche la parola di Dio parla molto del mattino, al punto che se ne possono trarre delle riflessioni che incoraggiano sia i pigri ad alzarsi di buon'ora, sia chi vede il mattino come il momento più favorevole del giorno. Una cosa è certa. Se paragonassimo la giornata ad una corsa il cui arrivo è la sera, dall'uso della mattinata dipenderebbe il nostro eventuale successo. Il mattino è il momento sul quale si può costruire in modo efficace la giornata. È quello che determina anche le gioie e i dolori nel corso delle prossime 24 ore e, a volte, anche della vita. Vi sono persone che non vedono l'ora di andare in pensione per poter dormire di più al mattino, eppure da quando sono in pensione non mi sono mai alzato così presto. La ragione è semplice. Se mi alzo dopo le 7, ogni impegno subisce un ritardo che mi costringe a far tutto di corsa, cioè a comportarmi come quasi la totalità delle persone. È innegabile che uno degli stress del XXI secolo è la fretta, la quale non nasce dal nulla ma per lo più da una sbagliata programmazione mattiniera. La vita di per sé è già complicata se poi questa non viene organizzata e progettata per tempo, ci si trova a non saper gestire le situazioni nelle quali ci si viene a trovare. Chi sa gestire bene le prime ore della giornata sa gestire in modo equilibrato anche il giorno intero. Perciò è saggio non vedere il mattino come il momento migliore per essere pigri, ma piuttosto il miglior momento per prepararsi con saggezza agli eventi della vita. Così chi dorme al mattino, chi si alza a mezzogiorno senza ragione, perde il momento più bello della giornata e parte con un passo sbagliato. Dobbiamo anche riconoscere però che ci sono eventi che sfuggono al nostro controllo, ma noi siamo chiamati a prepararci per tempo per quello che possiamo prevedere e non per quello che è impossibile prevedere e poi lasciare a Dio il diritto di intromettersi nei nostri programmi. Consideriamo perciò il valore del mattino alla luce della parola di Dio. Dalla lettura della parola di Dio comprendiamo che i credenti erano piuttosto mattinieri per uno scopo ben preciso. Salmo 5, 3, o Eterno, al mattino tu dai ascolto alla mia voce, al mattino eleverò la mia preghiera a te e aspetterò. Fin dal mattino i credenti nel Dio di Israele pregavano con ardore per le situazioni della giornata e della vita. Le loro preghiere non erano fuggitive o formali, perché dopo aver pregato attendevano una risposta. Aspettare è uno degli atteggiamenti più rari perché comporta un costante impegno e tanta pazienza, atteggiamento questo non favorito da una cultura e civiltà dove il più si ottiene subito e con poca fatica. La realtà che Dio ci faccia attendere prima di rispondere dovrebbe essere un esempio per i genitori a non esaudire subito e in abbondanza ogni richiesta dei loro figli. Se vogliamo rendere difficile e irreale la vita ai nostri figli, dobbiamo dare loro subito ciò che desiderano. Quando la vita era prevalentemente agricola, era normale aspettare perché dopo aver preparato il terreno e dopo la semina, si doveva attendere che la terra producesse il suo frutto. E a volte, causa le intemperie del tempo, non si raccoglieva neppure la fatica del proprio lavoro. Un credente che sa aspettare l'intervento del Dio Trino è un uomo adatto al regno di Cristo, perché nel campo di Dio occorre più pazienza che qualsiasi altra virtù. Salmo 59, 16. Ma io celebrerò la tua potenza e al mattino loderò ad alta voce la tua benignità, perché tu sei stato per me una fortezza e un rifugio nel giorno dell'avversità. Il credente non prega al mattino solo per abitudine, per quanto l'abitudine quando è buona non è sbagliata. Anche Gesù era abitudinario nell'andare a pregare sul Monte degli Ulivi, Luca 22.39. Ma il credente prega perché ha già sperimentato l'intervento di Dio nella sua vita, che ha realizzato che i suoi peccati sono perdonati per la fede in Cristo, è in grado di vedere l'intervento di Dio anche nei minimi particolari. Salmo 63. 1. O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco al mattino, l'anima mia è assetata di te. A te anela la mia carne in terra arida e riarsa senza acqua. La preghiera mattutina dei credenti non è solo di attesa per essere esaudita, ma è pure accorata. Si prega con lo stesso ardore di chi vive in una terra arida e chiede dell'acqua. Una cosa è invocare Dio seduto in una poltrona al riparo dal freddo, altra cosa è invocare Dio a mezzanotte fermo per un guasto meccanico in una strada deserta. La preghiera mattutina del credente è dunque anche sentita dal profondo del cuore, perché la volontà di Dio si compia. Del mattino, visto come parte del giorno e visto come metafora, parla anche il libro dell'Ecclesiaste. Un insegnamento da non trascurare. Semina il tuo seme al mattino e la sera non dà riposo alla tua mano, perché tu non sai quale dei due riuscirà meglio, se questo o quello, o se saranno buoni tutte e due. Ecclesiaste 11, 6. Ogni persona che coltiva la terra sa che il momento più propizio per seminare è il mattino o in mattinata, ma l'ordine di Dio va ben oltre. Se consideriamo la vita dell'uomo come il periodo di un giorno nel quale il mattino è la nascita e la sera la morte, allora l'ordine di Dio di seminare al mattino è da prendere su serio. Gesù ha detto espressamente che la messe del Signore è vasta e pochi sono gli operai. Questo vuol dire che nell'opera di Dio occorrono molte forze e chi le ha se non un giovane? L'ordine di Dio è di seminare soprattutto nell'alba della vita, quando vi sono energie, capacità, visioni, prospettive realizzabili. Chi sono quei giovani che accolgono l'ordine di Dio e dedicano la loro gioventù al servizio nel campo di Cristo? Per quanto mi riguarda, ho trascorso ormai 2/3 della mia vita e le visioni o prospettive del futuro non possono essere così ampie come quando avevo 21 anni. Dal giorno che mi sono arreso a Cristo, ho consacrato totalmente la mia vita per il regno di Cristo e per i figli di Dio. Benché ai miei tempi il lavoro, come anche oggi, era precario, benché il denaro, come oggi, non bastava mai, ho sempre dato precedenza alla causa di Cristo. Ero criticato e considerato fanatico anche da alcuni credenti stessi, perché il lavoro e la famiglia venivano dopo il regno di Dio. Sul lavoro i miei rapporti con i superiori non erano dei migliori, perché spesso chiedevo improvvisamente un permesso per andare a predicare ai funerali, e questo poteva verificarsi anche 2 volte in una settimana. I miei superiori conoscevano la mia fede ed erano dispiaciuti perché prendevo anche delle settimane di ferie per andare a studiare la parola di Dio. Molto probabilmente un altro operaio sarebbe stato licenziato. Ma io mi imponevo sul lavoro per la mia serietà, per il mio impegno e per le mie capacità. Davo tutto me stesso sul lavoro, come del resto davo tutto me stesso per il regno di Dio. Chi non è impegnato e serio nella vita non lo è neppure nel campo di Dio. Chi sono quei giovani che, a costo di essere disprezzati, danno a Cristo la precedenza? Chi è che semina fin dal mattino? La parola di Dio ordina di seminare al mattino, cioè di operare per Lui fin dalla nostra gioventù. Ma ordina pure di non dar riposo al nostro operato per Cristo anche quando saremo vecchi, perché non sappiamo quale dei due riuscirà meglio, se questo o quello, o se saranno buoni tutte e due. La sera rappresenta il declino della nostra vita, e cioè quando ormai capacità e obiettivi a lungo termine vengono meno. C'è da dire subito una cosa: chi non ha lavorato per Dio quando era giovane molto difficilmente potrà lavorare ancora nel tempo del declino della sua vita. Inoltre, nella sua vigna, Cristo ha bisogno di persone specializzate e non solo di persone entusiastiche, e la vita ci insegna che per diventare esperti occorre del tempo, molto tempo. Chi può lavorare con un profitto duraturo se non ha esperienza e un'esperienza pluriennale? Se nella vita quotidiana, per una malattia delicata o rara, cerchiamo un professore esperto, perché dobbiamo avere nel campo di Dio dei manovali? Chi ha servito Cristo da giovane è desideroso di servirlo anche da vecchio. Da sempre ho fatto mia la preghiera del salmista: sia la mia bocca piena della tua lode, ed esalti ogni giorno la tua gloria. Non respingermi nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando le mie forze declinano. O Dio, tu mi hai istruito sin dalla mia infanzia, e io, fino a oggi, ho annunziato le tue meraviglie. E ora che sono giunto alla vecchiaia e alla canizie, o Dio, non abbandonarmi, finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione, e la tua potenza a quelli che verranno. Anche la tua giustizia, Dio, è eccelsa, e tu hai fatto cose grandi. O Dio, chi è simile a te? Salmo 71.8-19. Che bello! Chiediamo noi fin dalla nostra gioventù di poter raccontare i prodigi di Cristo alla nostra generazione e la sua potenza a quelli che verranno, prima di non essere più in grado di farlo. Una vecchiaia vissuta all'insegna del desiderio di parlare di Cristo è la miglior motivazione per rimanere giovani, per mantenere obiettivi, visioni e allenare la nostra mente a rimanere fervida e lucida. Se anche le forze declinano, chi ha l'obiettivo di essere un testimone di Cristo troverà nuove forze e non avrà una vita demotivata e insulsa. Anche se un giorno si dovesse perdere il senno e non si potrà ricordare nulla, né avere motivi di gioia, vale la pena ora di essere felici di dedicare il mattino della nostra vita a Cristo. Un mattino che sarà ben ricompensato. Novembre 2006. Ellero.